best le propi la cultura che la mella nebbia del cervello. Se se mingatia ave peca, anzi, la tua riconoscenza la mestre mi, perché ti, in ogni nagotin che te dà la gioia del cuore, te vede della benevolenza del Signore. E la tua gioia l'è sempre onesta, come adesso, che te ghedi in dre la campana, e te sento onesta perché te vore d'ringraziam perché tu fave a mo la tua campana. Al contrario, la lasciura Giuseppina ave mingo onesta, che la crede poté comprare la complicità del Signore in dei suoi sporchi affari.